Ma cos'è Parasite? Cosa ci vuole dire? Parasite è un cerchio con tanti cerchi al suo interno, il cui centro riporta al cerchio totale. Ad esempio, la storia, o meglio, la risposta del padre nel dormitorio al figlio, che gli chiede che piano avesse, è la descrizione, l'esibizione simbolica in poche parole di tutto quello che è il film, del fatto che avere un piano nella vita non serve, non porta da nessuna parte. Pensiamo fin dall'inizio a come il piano della famiglia povera era tutto confezionato alla perfezione. E chi l'ha confezionato ha dato mostra di grande intelligenza. Tuttavia, l'inaspettato si è insinuato nelle loro vite e ha distrutto tutto questo castello ideale che avevano costruito. Pensiamo anche alla festa organizzata dai genitori ricchi, a come il padre dei ricchi cerca di far capire al padre dei poveri lo sceneggiato, di come fosse tutto concepito e tutto avesse un senso e che così volevano che fosse. Pensiamo a poi com'è andata, un totale disastro, anzi, il totale annullamento di quella famiglia. Quindi ritorna l'eco della risposta del padre nel dormitorio. Ma Parasite poi che cos'è? È uno scontro sociale tra poveri e ricchi, tra i poveri che ambiscono a condizioni migliori per la propria vita, che ambiscono al lusso sfrenato dei ricchi, che ambiscono a una vita migliore. Forse sì, forse no, non è molto chiaro. Cioè, i poveri hanno delle grandissime capacità, ne dimostrano davvero molte e anche molto particolari, sono quasi dei supereroi dell'intelligenza. Ricordano quei romanzi per bambini in cui, ad esempio, l'Accademia dei Geni, in cui ognuno di questi ha una capacità particolare e tutti insieme collaborano per conseguire uno scopo. È la stessa cosa per questa famiglia povera. Eppure, non vogliono in realtà migliorare la propria condizione, anche perché in un mondo ideale, considerando le capacità che hanno dimostrato nel film, l'avrebbero già fatto, avrebbero già trovato un lavoro discreto, i ragazzi si sarebbero iscritti all'università. E infatti, una volta entrati nel mondo dei ricchi, in quelle notti in cui i genitori sono andati in campeggio, non hanno fatto altro che continuare un po' la vita che facevano nello scantinato, aggiungendovi un po' di leccornie, un po' di alcol e una bella dimora, nient'altro. Come se avessero ambito al respiro della ricchezza, all'esibizione estetica di che cos'è la ricchezza, di quello che la ricchezza può comprare. Inoltre, quando il padre, la figlia e il figlio dei poveri tornano a casa, che c'è l'alluvione, non hanno nessun, cioè il film non mostra nessun distacco tra quello che era la vita nella casa dei ricchi e quella nello scantinato, soprattutto lo scantinato invaso dalla merda e dalla pioggia. Loro si sentono a suo agio. Pensiamo alla figlia che si siede sul gabinetto come se niente fosse, si accende una sigaretta nel pacchetto intriso di merda, senza nessun problema e se ne sta lì a fumare, come aspettando in pancialle l'arrivo di un lavoro, come poteva essere all'inizio quello delle pizze. Quindi è molto ambiguo ciò che vogliono, ciò che cercano questi poveri. D'altra parte, i ricchi danno prova di voler respirare letteralmente, toccare con mano qualcosa che appartiene al mondo dei poveri. Parliamo delle mutandine, di come il marito chiede alla moglie se indossa quelle mutandine e specifica economiche, come se per un attimo anche loro potessero sentire ciò che sentono i poveri. Quindi il lato sociale e economico della cosa viene allontanato, diciamo, ed emerge la vera differenza tra poveri e ricchi, che è quella ontologica, come se ci fosse una casta divisa da un'altra. E infatti il vero discrimine tra poveri e ricchi è l'odore, che il padre, il signor Park, il padre ricco, percepisce sempre in presenza di Kim, dell'autista, del figlio e di tutti gli altri, così come il figlio del signor Park. È come se avessero l'odore di poveri. Tra l'altro, sentito di nuovo quando il padre solleva il morto nel giardino alla fine per riprendersi le chiavi della macchina. Lo stesso odore sentito anche lì, non è un odore di puzza di chi non si lava, è un odore di casta, un odore ontologico proprio, che loro si portano dietro e qualsiasi cosa accada, qualsiasi detersivo utilizzino, qualsiasi marca di vestito indossino, permane addosso a loro, è indissolubile da quelle persone. E infatti per questo disprezzo olfattivo dimostrato dal signor Park, Kim, l'autista, lo uccide. Inoltre Parasite è tanto di più. Quando viene messa in mostra la lotta propriamente biologica dei due parassiti, il marito e la moglie precedenti, abitatori della casa, e i successivi subentratori, i nuovi parassiti che si scontrano, si scannano. Sembra proprio di vedere il quadro dove c'è la libertà a seno nudo con la bandiera che calpesta una marea di corpi, uno sopra l'altro. È proprio, sembra di vedere la società che si rincorre l'un l'altra in un continuo scambio di posti per un niente alla fine, perché loro comunque rimarranno poveri. Infatti c'è il richiamo a Snowpiercer, precedente il lavoro del regista, dove viene messa in scena una divisione ben netta della società enucleata all'interno del treno, solo che lì emerge proprio la volontà di rivalsa dei poveri che vogliono conquistare qualcosa. Per finire, inoltre, è curioso vedere come non ci sono freni all'ambizione dei poveri se volessero conquistare un posto nel mondo. Infatti, il figlio dei poveri, il ragazzo, dopo che il padre è sparito e ha scoperto che vive ancora nello scantinato, acquisisce un nuovo desiderio, quello di possedere tanti soldi da poter acquistare quella casa e finalmente rincontrare il padre. Quindi è un vero stimolo nella vita a mettere in moto le sue capacità, a farlo lavorare in senso proprio dell'uomo americano, del sogno americano, l'uomo fatto da solo. È il senso, quello per cui si vive, si combatte, che mette in moto, che fa risvegliare le capacità assopite di questo ragazzo. E tutto ciò per ricongiungersi con il padre, un essere abietto, possiamo dirlo, ed essere abietto lui stesso.